quindi stavo cambiando tutti i cavi fino ad arrivare all'appartamento, quindi figurati tu i problemi che ci sono. Vabbè, ma qua non ce n'è ancora, qua la fibra non esiste, perlomeno nella mia zona. Vabbè, dai, che mi guardo le mail, che devo rispondere a qualcosa della scuola e niente, ci sentiamo più tardi. Riprendi Giuseppe, ciao. Ciao T, buon tutto, dai, te la rifacciamo le prossime. Avanti al fonetto. Aia, andà bene mela, infatti funzioni cosa. Quando c'è segnale, poco segnale, quando sei in campagna è il problema, è dopo cavo, roba del genere, perdita di tutto, c'è. Purtroppo è così. Almeno di quello lì non c'è problema. Vabbè, in città si stanno cambiando tutti i cavetti qua, a Carbonazzi, stanno di palazzo in palazzo per mettere la fibra ottica, addirittura fino negli appartamenti. Figurati tu. Faranno lo stesso anche qua, questa zona del monte, la faranno così. Tutto sa che fanno con la fibra ottica, non l'ho fatto 5 anni fa, e lo stanno facendo adesso, capito? Hai visto che hanno fatti fuori di 10-15 centimetri di fronte a cosa? Dove era lo spirito vecchio. Piano, poi stanno scendendo giù, quindi stanno facendo tutto Sassari. Hai capito? Ci piegheranno, mi sembra, se mi ricordo male, sono 6 mesi o 9 mesi per fare fino agli appartamenti. In pratica arriva, cambia tutti quei cavi rossi e neri, cioè rosso e bianco, la verità, e agganci la fibra direttamente in casa tua. Dopodiché, una volta che c'è la fibra, vedi quello che ti pare ti piace. Digitale, più veloce, eccetera, eccetera, capito? Così con un cavetto è lento. Ho capito. Vabbè, andiamo, non me ne metto problemi, io già internet già lo vedo sul telefonino, non c'è problema. Ah, beh, quello sì. Però so perché l'ho visto ieri in televisione, quindi stanno cominciando dai nocchi. Sto facendo carbonazzi adesso, al di là di dove c'è lo spin vecchio, e stanno scendendo lì. Poi si vedrà. Piano piano faranno tutto. Cosa ne so. Guarda invece Antonei, quando pagano su internet. Ma sempre cercando di no, sì. Magari. Ciao Antonello, ciao Giuseppe. Ciao fra. Magari. Ciao fra. Ciao Giuseppe, sempre dicendo di no, ma cosa mi vede dire di no, lasciate perdere, la vita è più bella senza assurdi. È già l'augurino. Vabbè, là. Anche quelli fanno, anzi, non solo, anche quelli fanno parte della vita, quelli fanno, soprattutto fanno parte della vita. Avanti Antone. I soldi ci vuoi, senza soldi non fai nulla, purtroppo. Ma ormai sono scesi a fare la fibra ottica, prima ci hanno preso per il culo per 4-5 anni, dice che hanno fatto i fuori per piazzare non so che cosa, e invece non hanno fatto un cazzo. Adesso invece in pratica ti arrivano fino a casa tua, devono fare tutte le palazzine che ci sono a Sassari, tutte con la fibra ottica. Non è che arriva la centralina e c'è il cavo rosso e bianco, no? O direttamente la fibra ottica fino all'appartamento. Quindi figurati i lavori che ci hanno da fare. Vabbè, fibra ottica, ma quello è solo un guadagno per loro, non è per noi. A noi ci dicono che ci danno una certa linea, poi ce ne danno un'altra, e intanto dicono che sono ignoranti, non capiscono un cavolo, e così, solo per mangiare soldi. Appunto per quello, solo per quello. Mangiano soldi, dato ci sono i finanziamenti europei, quindi almeno se sono sbloccati e fanno il lavoro che devono fare, la cosa è quella. Speriamo che lo facciano questa volta bene come si deve, che non devono di nuovo togliere quello che hanno fatto e rimetterci un'altra cosa, no? E se no già la pigliamo buona nei 5 anni. A posto della fibra ottica magari andremo tutti via satellite e va pal culo a un certo punto. Così a me non ci sono né cavi né nulla. Sì, e infatti. Spigliato a Giuseppe, se vieni con la lì non ti intendi, Giuseppe. Adesso... Ma hai smesso di parlare oppure è mancato? Prendato Antonello. Ha parlato. E dunque... Antonello, non lo sento più, Aspetta. Giuseppe, mettiti in posizione buona, perché non ti sente Franco, Mi senti, Franco? Ehi, Mi senti adesso? A tratti. Poco fa non ti sentivo niente, adesso a tratti. No, perché sono qua nel poggiolo in direzione Sorso Cazzassardo, quella zona lì, dai. Adesso ti ho sentito benissimo. Devi cercarti una posizione buona, devi cercare. Ma mettiti un antennino in un punto e boom, dove prende più bene e via. Già lo so, è un buon lavoro, il vento, tutto quanto. E dovevamo buttare giù l'antenna e mettere il cavo nuovo, hai capito, fra? Vabbè, il cavo non è tutto, è l'antenna è più importante del cavo. Poi è giusto che anche il cavo si cambi, però... Diciamo, se è buono quel cavo che c'hai, lasciaglielo stare, tutti i dinagli tardi, cioè per parlare ogni tanto. No, è tutto quanto visto che è tutto quanto nero, dunque, lo devo cambiare, fare una con la pena. Vedi, adesso c'hai, probabilmente ti sei messo in una posizione molto migliore, perché ti ascolto molto molto bene, ti ascolto adesso. Bene, veda, avanti Antonio. È così già. Il cavo ce l'ho anch'io così, mi addirittura. Nero, la calza nera, evidentemente è filtrata acqua dove c'è la Diamond. Mi sono accorto quando ho passato il cavo dentro casa, sono andato a tagliare il piede e mi sono trovato la calza nera. Evidentemente ha filtrato acqua da sopra. Mi rifaccio per forza qualche lavoretta con l'antenna. Silicone, quello che è, dal PL, in modo che non filtri l'acqua all'interno. Evidentemente passa dallo stilo. Cosa capo non so. E quindi mi cambio il cavo adesso. Piano piano mi faccio tutto. Mi cambio tutti e tre i capi e se la piglia in culo. Ma anche tu, mio Antonio, ogni tanto stai spezzettando, non ho capito perché. Sarà il cavo senz'altro, che è vecchio, capito? Però l'ha regalato Giuseppe questo cavo qua. Anzi, anche se mi segna stazionale, evidentemente è quello, non lo so. Cavo sì, è utile, è necessario, perché quando è buono il cavo sì, va bene, rende tutto, però anche l'antenna fa la parte sua, anzi, è l'antenna più di tutti che fa la parte sua. Però, diciamo che anche se ci devi mettere anche un cavo buono, naturalmente, come ha detto Giuseppe poco fa, è giusto, perché io diciamo che sulle mie antenne c'ho H1000, c'ho tutto H1000, e nella 27 c'ho la, come si chiama, 213, ed è buonissimo. Infatti adesso 213 lo tolgo dalla 27 e ci metto la H1000, che è molto molto migliore. E io non posso prendermi la H1000 purtroppo, e se non fare un buco nel muro che mi entra l'acqua dentro a casa, dal tetto, ci metto il 58, tanto non è che devo pompare chissà che cosa, non me ne frega niente, basta 100 watt, quindi non le faccio io di, cavo H1000, no? Cioè, è troppo grosso, se cazzo, mi farebbe mi entrerebbe l'acqua in casa, no, non ho, meglio niente, non me ne fotte nulla. Ma Antone, non hai detto che devi fare buchi nei muri, buchi là, vabbè, io ho tutti gli agganci esterni, non faccio buchi, qualsiasi cosa che faccio, ho tutti gli agganci esterni e dentro ho un cavo e basta, che poi da un commutatore mi fa tutto, non c'è bisogno di fare tanti buchi, è così che dovresti fare tu, fatti gli agganci esterni e un commutatore all'interno per tutta la radio. Aspetta un attimo, ho già detto subito. Sì, ora ti giuro. Che l'ho piantato io l'antenna e l'ho piantato comunque. Tanto per farmi aggiustare l'antenna e mi faccio notare. Faccio un conto. Vabbè. Voi siete, diciamo, magari siete in condominio, dovete chiedere ordini e fare e dire, è un casino. No, io sono tutto libero, tutto mio, e faccio quello che voglio, e salgo e scendo come voglio. Quindi, adesso ti ascolto molto meglio, molto meglio di Antonello anche, ti ascolto. È una posizione buona quella che c'hai tu adesso, Giuseppe. Quindi non ho crepoca. Sotto sta pensando e la Maria di Giorgio, il porottore. Sono lì modulato, ha capito, dunque adesso. Ancora non ho crepo. Poi l'antenna, l'altra, il coso per il PMR, poi lo faccio vedere io come pompa. Sì, vabbè, mica deve pompare, sempre un portatile è un portatile. Quando usiamo dei portatili dobbiamo usare solo quella piccola bassa potenza, perché non possiamo usare diversamente, non possiamo usare. E purtroppo è così, Giuseppe. Però se trovi la posizione buona di modulazione è perfetto, dai. Cambio il cavo, tutto qua, faccio una tappa agganciata al palo e gli piazzo anche l'altra antenna, capito? L'antenna del PMR. Capo, bene, infatti. Va bene, c'era uno che chiamava Franco, avanti che chiamava Franco. Sono passo, pensavo di un cattarlo, Giuseppe. Ciao Tino, buonasera. Pensavo di un cattarlo, Giuseppe, vabbè. Domani mi baci tu, domani, grazie a Mangiano. Questo vestire a Franco, ti ha passato Giuseppe alla grande anche, se l'ho chiamato vuol dire che ti ha passato. Ti ha passato, vabbè, già si può permettere lui, già tutto quanto organizzato lui lì. No, e io sto uscendo, sì, con il buffer lo stesso, con l'antennino di gomma. Va bene, divertito, ciao Franco, buona serata, ciao Antonio, ciao Giuseppe, ciao a tutti, ciao. Ciao Tino, ben ascoltato dopo tanto, sempre un piacere. Avanti Giuseppe. Sì, ricambiati accento, dai. Hai capito, dai, Franco, come il discorso? Capo, ho capito, sì. E cosa ci vuoi fare? Ora, non abitava prima coso, come si chiama, quello radioamatore, che c'ha l'officina giù a Predaneta, Sabucci, Sabelio, com'era il nome, non mi ammetta più, ma va. Non lo so, guarda Giuseppe, non ho capito neanche di chi stai parlando, l'officina Predaneta, non lo so, non ho idea. Radioamatore era, radioamatore, che c'è, è di fronte alla Germacar, c'è l'officina lì, di fronte lì. Non te lo so spiegare, non te lo so dire chi è. Era radioamatore, sarà ancora radioamatore penso, ma ho deceduto. Oh, è ancora radioamatore, giusto, abitava qua di fronte a me. Aveva un'antenna, una signora antenna piazzata sopra il tetto, cazzo non potevo parlare io, mi crepavo a me. Caspita tu, vuoi competere con un radioamatore? Radioamatori c'erano delle signore antenne, non una signora antenna, delle signore antenne c'erano i radioamatori. Purtroppo se volevo fare radio, volevo fare radioamatori. A me ok, uno no, è radioamatore, poi non lo fa, non c'è niente né niente. Però un radioamatore serio che si rispetti, capita, c'ha le antenne buone. È certo che ci fanno a pezzi a noi. Appunto forse lontano dal baraccino. Poi vediamo cosa ne esce fuori, perché una persona mi fa fare scenare una cosa a livello straordinario, dai. Poi te lo farò vedere fra quando me lo porta, dai. Non ci vuole la patente per usarlo, perché usare, possiamo usare tutto quello che vogliamo, però è tutto a rischio. Sì, no, non usava lui in continente, hai capito? Dunque se l'ha portato indietro e adesso non sta più modulando e mi ha detto guarda, se lo vuoi te lo regalo. E gli ho detto vai, vabbè uno squillo, dimmi quando vengo a prenderti la roba e poi ci mettiamo d'accordo. Capo, lo sai Giuseppe, per mettere una cosa del genere ci vuole anche una terra buona. Lo so, già lo so. Già adesso vediamo un po' cosa, cosa ne esce pure, là. Tanto è stata una terra buona sul tetto, dunque, una volta piantato sul tetto, casa mia, e poi faccio tutte le prove e tutto quanto, quando va bene, e non la tocco più. Sì. Vabbè, certamente, io lo stesso, da quando l'ho piazzato non l'ho più toccato perché è sempre una meraviglia. Ora c'è sempre vero gli stazionari, ma neanche uno è uno, vero, non si muove neanche l'ago, né da una parte né dall'altra. E che una c'hai, fra? Io ho lavorato la turbo, ho preso la roba, ma quando l'ho fallata è una bomba. Quella che non ha ragione, Maria, la pelle 27, no? Cos'è, una redonda o un 4 onde? 4 radiali, sarà. Vabbè, anche la 95 ne è 4, ho dato una 4, ho dato una 1 ne è 4, eppure è una 5 ottavi. E da vedere quanti scopresse 5 ottavi, 4 onde oppure... Oppure com'è? Non lo so, cos'è, mezz'onda pure 5 ottavi, non lo so, neanche la tonnella, quello proprio non lo so. Che se ne è andato a mandare il microfono, che... Poi si vedrà queste cose girano là, sperando di fare lavoro fisso e tutto quanto, poi vediamo un po'. Diciamo il lavoro fisso è finito per tutti, è finito, sai, non ce ne sarà più. Alto basso, stanno facendo solo comprate stanno facendo. Ti tengono anche anni che tengono a contratto, ne abbiamo uno a contratto per carità e non riescono a prendere il contratto fisso, è un casino. Lavorare, fare 4 mesi di e se devi passare il giro, dai. Sai cos'è, che a contratto, se ti manca un lavoro, finito il contratto ti dice di venire a casa, ti rimani a casa e non puoi lavorare più, poi ti chiameranno se per caso un altro lavoro, se poi è un principale non ti piace la domanda, ti prende, ti ci butta fuori e non ti chiama più, e tanto mi pare di imprenditori. Lo so, però purtroppo la vita delle cose è così, purtroppo mi faccio 4 mesi, 5 mesi, quello che è, mi ritiro per i miei piccoli stipendi e metto a parte, poi se vengono tempi buoni, buon per me, se no pazienza, e non devo guardare. E certo a chiedere l'elemosina non ci vado, questo è poco più sicuro. Almeno quel poco, però se lo incasci, capito? Non fai come lo strozzino, dici mi devi dare al mese, quant'è? 500? 500 euro vai e ti ritiri 500 euro al mese. Pane, vino. Io non sono alle dipendenze di mia madre. Sta ritirando una pensione di 600 euro, cazzo. Di 580 euro e stiamo tirando avanti con una macchina e andiamo avanti piano piano, quello che guadagno lo metto in casa, punto e basta. Lo so però purtroppo, ma se macchina non hai travaglio, non te può mai capitare, invece avendo la possibilità di avere la macchina, quello che ti esce vai e te lo fai, hai capito? E giustamente e purtroppo è un vero bulba. E io adesso, quando lavoravo giornaliero, mi facevo l'abbonamento mese per mese, 40 euro, e viaggiavo per tutto il mese, dunque, e facevo dalle 10 di notte fino alle 7 di mattina. Alle 8 rientravo a casa. Purtroppo è così, se lo vuoi, cazzo. O quindi quella pagnotta oppure non mangi nulla, che discorso è quello. Di poco però sempre ti rende avanti e vai avanti, quei pochi che ricavi te ne metti a parte e poi un domani lo farai sempre piano piano, poi quando non ti renderai in pensione, tanto la pensione già è poco, quello ti danno la sociale che mi pare io 200 quasi 400 qualcosa di sociale. Sono 27, tra l'altro, il capo non in conto e quando non cambio il capo, poi è sempre spento, non ne vale manco la pena accenderlo, perché tanto lo devo portare Antonello, me lo deve mettere tutto a posto e poi una volta che ne butto giù l'antenna e ne metto il capo nuovo, riprendo con la 27 e poi vediamo un po' cosa ne esce fuori. 25 metri, è un bel pezzo che mi hanno fatto. Un po' caruccio, cuidaro 25 metri di cavo, vuole 25 euro, R58, a 1 euro a cavo, a metro qua, lo dai, lo sai che, cazzo, quelle lì, o si butta in una maniera o si butta in un'altra maniera, amici, discorso, tra cavo e pieli che nuovi, vuole, sorry, 20, quasi 30 euro vuole, dai. Adesso vediamo tutto il discorso, quando arrivano i soldi poi con i soldi puoi prendere e fare la decisione, bravo, il discorso è quello, cittadina non puoi va tutta e non puoi prendere nessuna decisione, niente, me lo deve essere cercato. Ushabuku Polpo, ci sei? Vabbè dai, fra, ci sentiamo più tardi, dai, se coincide, dai. Se rientra Antonello, gli do un abbraccio, dai. Aspetta, ti faccio il signor Birra. Chi è là? È bello oggi. Ah, graziano, tu sai che mi vuoi bene. Ebbene, ti sta a posto? Tu sposto, ho comprato il vino stasera, mi biagheggio stanotte, faccio festa, vado a cosa, a giapponesi. Che festa hai? Non ho capito. Che festa hai? Ehi, a Shanti stanotte vado. A Shanti, e dove vai? Bella. Mangi le macchine, sì. Ehi, sono in macchina qui a Pedranietta, facendo calendari, non candelabri, calendari. All'Apricome non c'è. Adesso vado se c'è l'Apricome, sono andato da quello che vende i mobili, molto convenienza non aveva manco uno. Terminati là. E puoi chiedere anche a un rivenditore di bombole. Non posso insegnare. La chiesa che c'è? A me me l'ha dato il bombolaio che mi porta la bombola. Uno. E chi è? Pala, quello che c'è il latte dolce. Mario Pala. Oh, sono distante. Piglia, cazzo, mi sto pigliando. chiedere, non so, a da cosa, all'Africa non lo so, all'edilizia. All'edilizia, boh, adesso vediamo un po'. Viene Pescucci, sì. E beh, da cosa dovresti chiedere? Quello che va a vendere l'edilizia e pavimenti. Lì. Ma va, vediamo un poco. Vediamo un po'. Da buone frigini, lì già ce l'hanno. Ce lo danno ai clienti. No, vediamo un poco se dove andare. Cade a livello medio. Oh, non ha fatto più nessuno. La crisi. No, il bombolaio mio lo fa ogni anno e gli dà. Me ne ha dato uno. Meglio così, da una, alla mattina. Cosa? È meglio di niente, a me lo te l'ha dato uno. Me lo dà ogni anno, me lo dà. Anche farmacia me l'ha dato qua, farmacia da signora Turnina. Vediamo da qui come se c'è qualcuno. E chi è il tuo entri farmacia? Calendario ha fatto quest'anno. E se l'hanno fatto già se li dà. Va bene. A mia moglie gli è dato anche qua nella farmacia. Meglio così. Poi me ne arrivi uno per il posta, quello di padre e figlio, però lì gli deve andare un'offerta. Sì, ma che sono una cazzata, l'ho visto anche stamattina, l'ho chiamato io. C'era dei calendari ma non servono a niente. C'era dei calendari piccoli piccolini. Non è grande, infatti ce l'ho appeso lì, però non va bene. Io li uso perché mi segno anche le visite. Questo del bambolaio già è normale, là. Puoi segnarti visite, quello che vuoi. È quello che serve a Mario, non per me. Quelli dovresti chiedere, i bambolai il più li fanno così perché sono i più economici, capito? C'è solo il nome del bambolaio in bu, costano di meno quelli a farli fare, e già andare bene. Vabbè, quello sì, chiedono anche più, non è una palla, no? Chiedi, vedi un bambolaio, ti fermi con lui e se glielo chiedi, non è che ha fatto il calendario quest'anno, già te lo dati. Antonello. Dimmi Giuseppe. Vai da Testone e da Giulio, che già ce li ha i calendari lì. Allora faccio io adesso, va. Lì da Testone, con la scusa, dice, guardi, vorrei sapere quanto costa la tanica di gasolio e se c'hanno questi calendari qua, se lo può dare uno. Lo vedo io, là. Mi fermo lì e glielo chiedo. Perché sei in giro con Mario? Sì, io sono insieme a lui, esatto. E se ho preso il vino da Santa Maria a Palma, cazzo non vedo cosa, cazzo. Bianco, ma buono, mi. Auguri, ciao, mi. Cazzo auguri, mica dovevo canotto, ma matto sì. Ciao, mi, ciao. Cazzo, auguri, Cazzo, crocro. Mi serve per oggi, mi serve per pranzo. Tranquillo. Oh, yeah, curatia. Te lo sto dicendo, cazzo, lo sto dicendo. Adesso mi sto dando la bricomena. Dai, la tettone troferale, va. Sì, ok. Vabbè. Graziano. Dimmi. Cos'è fatto oggi? Ho pulito, ordinato, fatto i piatti, tengo la roba, ritirata. Tengo un altro, però ancora è umida quella. E a pranzo oggi ho fatto pasta, fagioli e patate buona, ci ho messo in mezzo il pezzo, un pezzo di lardo a dadini e un pezzo di pancetta, sempre tagliata a dadini. Poi cosa ho fatto? Fettine di cavalladondolo, insalata verde, pomodori, pane, salsiccia e cacio, benetta. Ho fatto bene. Meglio così, almeno sei andato bene. Chiaro credo, volevo fare spezzatino, ma mia moglie deve essere, ce l'ha messo in fondo nel bossetto. Non ha più gana, ha detto, beh, vanno le zero. E ha giubato isso. È fatto bene, è fatto bene. A me l'ha mangiato qualcosa di vecchio. La mangiano tutti qua, la pasta e fagioli, patate, carote, cipolla tritata, ci ho messo, già la mangiano tutti. E la già è buona. Mare e avvammi. Vedo, male la vame, cazzo vanno bene. E per dirti io, secondo non me l'ho mangiato di fettina, mi ho mangiato un pezzo di salsiccia, un pezzo di peretta, un pezzettino di pane così, due mandarini, e un arancio piccolino. E cosa vuoi di più? Niente, anche la minestra e fagioli sembra così, con tutto il condimento che c'è, le patate, mangio tutto pure un pezzo di pane, un rodino, buona reggiuina, proprio saporito, saporito. E ti teccia, compreso, tu che dici, no, non li mangio, se mi mangio due pezzi così, e boh. Male la vame, quando non venne. E allora, mia va, mangio vedo un caffè, mangio mangiato un musico e biscotti, lungo, morbidi, morbidi, non mi ammetto quanto si chiama. Savoiardo. Savoiardo, quello lungo che è morbido, buonare, un giorno bambi l'ho mangiato, sì, c'è il zucchero filante in polvere, ed è troppo dolce. La crocevia quasi male. Se ne mangi un pezzo, si vuole mangiare, viene a mangiare, vedo formaggelli, c'è una specie di cato fatto con i pinoli anche. Ieri ne ho assaggiato un pezzettino, buono e buono, ma il cato è fatto con lo zucchero, io quello ho solo assaggiato. Pure ne mangiare, viene a mangiare. Se la fame che non manca. Dopo approfittarne, mi la puoi intanto di mangiare più mi sento male. E cambierò quasi qua. Fatto bene, grazie. A me l'ho mangiato leggero, tranquillo, e si è riposato. Grazie, no. Eia, avanti. Sono stato da Bri come un cazzo, non c'è manco calendario qua, manco gratis se lo danno. Ma ti ho detto di andare da Testoni a te, cazzo. Tu sei più tonto dell'asino, cazzo. Tu sei più tonto dell'aino, cazzo. Ti ho detto di andare da Testoni, che ce l'hanno. Adesso vado da Testoni, invece me lo danno. Due volte io sono andato a prendere il carosello. All'entrata. Quando dici, rubrici, non è che avete fatto il calendario questa. Già te lo dà. Ma va, ci passa. Entri lì, tanto la sbarra è sempre aperta. Come entri, si vola a destra, ti fermi lì. Ci sono le scale, entri in ufficio. Io lì ci ho lavorato un sacco di anni, tanti anni fa. Già conosco il coso di questo mio, la nipote conosco, che non mi ricordo come si chiama. Io riconosco tutta la famiglia, pure il signor Umberto, il signor Toruccio, che mi pare sono morti tutti e due. E adesso ci sono i figli. Sì, sto parlando di cosa io, di qualcuno, cognome. Che cosa ha Testoni e una, la figlia, e il marito è a... sembra che era geometra, una cosa del genere. Abitiamo in via di Zizio. Ehi, ehi, ehi, ci ho lavorato un sacco di anni lì. Ehi. Poi me ne sono cantato, l'avevo sempre girato l'elica, la buona anima del signor Tuccio, se ci mandate al suo paese me ne sono cantato. Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene. E allora, pure a fare lui arginieri, la città per essere amato. La città io qui sono voluto a lavorare autista, non a giardiniere. Il giardino ce lo faccio lì. E che cazzo sono? Lo sguattero giù. E me ne sono andato. Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene. Avanti Giuseppe. Vai da Tettone, da Giaciliano lì. Se no vai da Carlini e glielo chiedi. Da Carlini, sai dove? Di fronte a Portobello. Ah, quello che aspetto di te. E c'era anche lì. All'entrata, l'ufficio glielo chiedi, guarda che sono voluto per sapere quanto costava. Gli ho detto lì a scusa del gasolio per incontrare. E lì. Mica glielo chiedo, eh. Avevo un po', questo non la pena niente, mi sta passando. Ma vai, ma di sicuro vada a Tettone, là ce l'hanno, hai capito? Sì, hai già capito. Perché non me l'ha detto a me, cazzo? Sono andato due volte io là a prendere il carosene, cazzo, e me lo potevi dire, là, cazzo, di procurartelo, no? Sì, vabbè, adesso mi chiediamo a Guaglietti. Aspetta un attimo. Vabbè, riprendi, grazie. Ehi, uiu, ehi, già te lo dai, perché non te lo dà? Te lo dà perché per fare la pubblicità. Ah, sei molto gusti. Quando andavo io dicevo, me ne prendo un paio e prenditene quanto ne vuoi. E tanto poi li dai e fai la pubblicità a loro. Eh beh. Io due volte sono andato a prendere il carosene e tutte e due volte me ne ho preso uno di calendario, poi uno me l'ha chiesto anche Conzo, me l'aveva chiesto, no? Claudio Sparviero. E io ne ho uno qua appeso in cucina, due dentro allo sportello del mobile, quando lo apre c'è il calendario, quindi sono tre, ma non ne faccio niente più. Anzi, un altro ce l'ho anche buttato. E quando non è un bello tanti di fare, ma ne ha anche dato di quelli che mi hanno regalato. E cosa me ne butto? Ma poteva andare anche alla CRAI, no? Alla CRAI ce l'hanno lì il calendario. E anche alla CRAI lo stavano dando, anche alla Conand. La Conand lì, alla Teloce, ce l'hanno, apre alle 4:30, dunque, a voglia che... glielo chiede, guarda, non è che ci avete calendario, cazzo glielo danno, non è. Poi c'è quella farmacia di fronte, anche lì ce l'ha. E allora, quella CRAI ce li ha, la Conand ce li ha, vicino alla casa dove fare. Uno allunga la mano e si rubiglia, va? E attaccata la Conand dove c'è cosa, dove abita Gio Maria. Ehi, va? Ehi, anche se anche questo supermercato qui dove c'è il trenino ce li ha. Li ho visti l'altra volta che sono andato con mia moglie, vicino alla cassa. Sono non ha giubilato, cosa me ne fai? È la CRAI lì. Ehi, ma non ho preso io, sono stato celosa, me ne faccio, ma... anzi, mi pare venne pure un dretto garascio. Che bello che cucina, bella da vedere. Io, per carità. Lasciami, devo avvicinarmi a coso lì, dal prete, alla bretella, allo Gavino. Devo accompagnare mia madre, che si deve confessare. Ehi, già se ne vada da un Gavino, gente. Spera che lo trovi, a chi non va mai, lo sai cani tutti. Il prete di Benefratelli è lui. Ehi, già lo so già, ma lo sa la gente che ci va, ui, molte volte non c'è mai oppure impegnato. Dipende, anche lui ha i suoi impegni, come sa già tolte. Ehi, ce ne va gente, già lo so già, ui, per sempre la vita. Aiuta un sacco di gente dopo. Ma un bel mio, già la gente che aiuta. Che aiuta se lo c'è. Hola, hola, hola, hola. C'è nessuno? C'è nessuno in casa? Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Io ho trovato il calendario. Dove l'hai buscato? La macro, l'ultimo. Ehi, già andavi. Meglio di niente, già è scappa. Ehi, ehi, un paio te ne hai fatto là. Uno ne ho preso. E devi pigliare due, due o tre, non ti dice niente. Serve sempre uno in più. Sì, ma ne ho fatto uno per cui. Che cosa è quello? Ehi, ma quando pigli la bombola, non dice al bombolaio che ha solo forza. Ma sai che chiamo la bombola domani? Faccio parlare la bombola. Posso portare il calendario, la bombola è una ragazza per fare il ciucucciù. Sì, già ti porta tutto il bombolaio. Anche i cinesi mi portano. Non credo, Oscar. Se ordini sì. Ah, se ordini mi portano anche i cinesi. Tutto ti portano, basta i pani. Ma se avevi i soldi non mi portano tutti, già è vero, eh. Tutti morti sono, tutti cucati a pancia all'aria. Tutti buttati in culo, sono. E allora? Mi sto guardando un film di John Wayne. Bello è almeno. Ehi, è quel film che ha assunto quei ragazzini per trasportare la mandria dei bue e dei cavalli nel Texas. Ah, già ho capito così, sì, io mi farò ancora. Puglia. Anche io l'avevo già visto, ma l'ho beato. Me lo guardo lo stesso. È uscito a tratti, in movimento, sì. Ehi, ehi, già sono finiti. Uscito sogno. Tutto tratteggiato stai arrivando. Ho detto uscito sono. Ehi, già ho capito. Cava, cava. Già fa bene, già fa bene. Ehi, con la batteria ho fatto la email. L'ho impacchettata e passa a FDA a ritirarmela. E mi rimborsano i soldi. Vabbè, non potevi ordinare un'altra, scusa, ma quell'apparecchio là non ne hanno. No, prima un buono mi volevano dare, ma gli ho detto no, no, mi rimborsa i soldi, quando me li rimborsa ordino quella per questa qua. Vai, va tu, almeno sei più tranquillo. E allora, l'ho bella impacchettata con una scatolina di cartone. Ho stampato il coso al tabacchino, gliel'ho attaccato come c'era scritto lì. E adesso quando passa il sedia gliela do, gli attacca una matricola e mi dà una cuffia a me. Poi già me le rimborsa. Io così, grazie, a me lo sei più tranquillo, a me lo recuperi quei 5 euro. E beh, tanto non andava bene né qua né all'altro. hanno sbagliato loro, perché io l'avevo ordinata per l'UV5 RA e non va bene. Quindi è fatto bene. Lo recuperi quei, quanto sarà? 5 euro e che spendono di più? No, è gratuito, perché hanno sbagliato loro, mica ho sbagliato io. E dunque c'era un rimborso, un buono d'acquisto e la gente lo rimborso. Me la rimettono nella PayPal. Quando mi ripone il mio cinegio, questa aiuta, ma tanto quello là non ce l'ho più, l'ho venduto. Hai fatto bene. Almeno recuperi qualcosa. Quanto avevi pagato per la batteria? 5 euro. 16 euro. Cazzo, più la baracchina l'hai pagata. Ma oggi stava scherzando, 16 euro. 16 euro perché è da 3.008. È più grossa, è più grande, dura 3 giorni. Cazzo, costa 25 euro delle 5 plus, quello che ho io. Cazzo, 16 euro. Con la batteria pure, non so l'altro. La batteria l'ho pagata così, a parte, no? Quella che ho qua è grossa come quella. Ma è giusta così, infatti questo l'ho pagato qualcosina di più perché la batteria è più grande. Ho capito, ho capito. Stiamo bene, boh. Quella da 1.800 volte, quella lì, ti dura una dini manco. E allora, quello là me l'ho venduto e me l'ho comprato con la batteria grande. Dura 3 giorni, così non so cosa farà caricare. Capito, mi hai? Sì, aspetta che stavo facendo una memoria. Ah? Non ho copiato. Bello bene. Caduto, sì. No, sono qui, aspetta un secondo. Sì, avanti, chi vuole entrare? Bello bene. Chi è? Chi è? Io sogno. Aspetta che mi scoppio. E beh, parlo beh. Avanti. Quella è asma. Non sei uscito. Ehi, non stai uscendo. Quello si è fatto inculare, te lo dico io. Chi è Antone? Via. Chi è? Ecco perché Antone. Ma la sbaccia. Pigliate una pillola. Di quelle blu e io mi vedrai la vici a vai il santo bauru e io amore, ho fatto il pomodoro, vedi? No, mi ha mangiato uno di quei biscotti lunghi, morbidi, come si chiama? Papacino. No, quelli lunghi che sono morbidi. Come gli altri? Mezzo, dennalo, 30 centimetri, col caffè, proprio buono, dopo mi prendo un bacio, moscerì, e quindi con la ciliegina. me ne mangi, Mi ho mangiato anche un pezzo di cotto fatto con i pinuri, buon arito. Puro, te mangi due? Due caramelle, una la menta e una la fragola. Ah, tre noci. Certo, bubu. Adesso non so se attaccare la 27. Ah, a vedere chi c'è. Mi sta passando una donzella che mi conosce e che mi voleva. Ella, ma dice una di tira via Zabito, mi butta con te, e io la vita, se ci batte, passava di meno prima. Intendi il ruggio di buona curri? No, mica glielo ho detto, che è amica Giulia, ma tu. È vero, Ma noi che mi piace assai. Che buca! Ma va bene, come dice, non è che mi attirava molto. Come si dice così? Come attraenza, che è bella piazzata. Però, come dice, non è che mi piacesse. Lunga! Sapeva la resta al vento, mi ha diviso una di chi fa via la coda. Ha su fatto bella, capisci? Pari giumbo! E va di figlio mio, la di, e va di, ma parente di giumba, sì. E invece che la di figlio, Gio Marina è a Panzenato, grata in disida, bubu, già dromi poco che si ha trombuto. Sta bagnato i piedi oggi, i piedi di mucca. Mi ha detto che erano un bel bori. Quali sono i piedi di cavazzo? Ma mai mangiati dai? No, di cavazzo no, d'agnoli sì. E di bocco sì, con le fave, buonariti. Piedi di cavazzo? Lo zoccolo mi, fatta brutta lì tu No, lo zoccolo no. Va giù, lo ferro dei cavalli non che ha piccato. Poi ne ho un altro lì su, dice che portano fortuna. Uno lo, no, li avevo verniciati tutti e due neri, a bomboletta, nero lucido. E l'ha giusto un fiocchetto color ruglio. E ci sta bene. A me manite portavano fortuna. Mi faccio blu io. Come fuso non me ne ha regato. Allora, ma se porta fortuna o per il malucchio, ne ho due o tre. E campagna è nata la giornata d'ingresso, sa di buccio, un paggio di gorra, 20 maduri, di toro, sa di vatti, niente, e in punta, nella punta. Col pennello gli ho fatto scendere la tinta rossa e l'ha già piccata all'ingresso sopra la gianna di campagna. Io c'ho la modella 70 mia, oh grazia. Mamma mia, tutto qua rematto, sì, e dove sì, bella be. Casa. E come mai io ti sento così? Il gommino non può pretendere di sentirmi bene, hai capito? Luca, caduto sì. Io lo sento, chi è? Natalino, Io lo sento. E Luca? Io sono Natalino, dai. Anche qua arriva un po' col cuore, Natali. Ah. Natali. Ehi. No, arriva bene, parla a vedere. Sono due e tre. No, arrivi bene, Natali. Se lo tengo così in mano il portatilino ti ascolto bene, solo appoggio non ti sento più. Sono gommino, non sai più pretendere. E allora va benissimo, non bene no. Va benissimo. Lo so. Antenna come si vede, bigliere? Vabbè, ma già arrivi comunque, dai. Anche tu arrivi bene qua. Benissimo anzi. Anche tu. Ripeto, se lo appoggio non si sente. Invece se lo tengo in mano arrivi bene. Col gommino sì. E io non ne ho altri, io no, c'è solo questo qua e buh. Quello è. Vabbè, la valla di cuffati dentro la banca lo sento a Natalino. Fa passaggio Natalino. Graziano, caro. Caruccia, così ti sento bene, però l'ho coricato sopra il tavolo, la radio. Sì, già lo so, col gommino non potete, siamo troppo lontani per potermi sentire bene col gommino, mi capito? Queste frequenze, la mia cosa, si bloccano. Sono col gommino, però l'ho coricato sul tavolo, l'ho appoggiato. E se mi c'è va bene senza QRM. Lo so, perché magari è puntato in direzione mia. Voi siete vicini, ma io da voi sono un po' lontanuccio e quindi imbattono poco questa cosa qui. No, come puntato è puntato verso Città Mercato. È coricato sul tavolo, puntato verso Città Mercato. Vuol dire c'è il corridoio lì io. Eia, Luca! Eia. Vedi, con la radio coricata sul tavolo lo sento bene a Natale. Il ladrizzo è seduto con un QRM. Vuol dire la onda sua giù in basso. Sì, infatti. Evidentemente il corridoio dove è puntata l'antenna. Capito? Qui con i gommini, Uia, vogliono tarati bene, se no è inutile. Qua arriva a fondo scala da me, grazie da te. E anche qua arriva a fondo, è chiaro. Però se lo raddrizzo, ho provato a raddrizzarlo quando stava parlando. Lo alzo un palmo e comincia a sentirsi QRM. Se lo metto lì, non mi sento panica, tutta tratti, e mi do un sacco di QRM. Evidentemente la sua onda è a questo livello di altezza, passa qua. Graziano. Dimmi dolci. Come mi senti adesso qua? Benissimo, la poco essa, pulito, pulito. Sto dietro casa tua, me. A te la drizzo. Niente. Parla. E dimmi, Natalì. Non mi senti già? E io ti sento, io sono qua alla bretella. Ma io ti sento benissimo. Ma chi c'era? Anche Luca c'era? No, con la radio dritta non ti sento. Prova, così è coricato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così ti senta a bomba, però se l'ho coricato sul tavolo, se l'ho raddrizzo neanche a te sento. Vuol dire la onda è questa linea qua, questa altezza, là, questa altezza. Ma chi c'era? Luca c'era. C'è anche Natalino, guarda se lo tocchi. Lo so, a Natalino gioca. Luca, ci sei? Via. Spiri Gonzale, come stai? Filunci, bene, tu? Non c'è male. Ma dove sei, a Canica? Sonno, qui c'è a Graziano, sono, dalla casa della mia ragazza. Qui alla bretella? No, Santa Maria di Pisa. Io sono dietro, dopo c'è la chiesa di Don Gavino, dai. E lì a fondo scala. Ho capito. Vabbè, dai, riprendetevela tutta, dai, già sono qua, dai. Ma sono qua, riprendetevela tutta, grazie, riprenditela. Che la stai usando, Giuseppe? Il PMR con la antenna di gomma. Ho capito. Va bene. Vabbè, dai, a dopo, che ci sentiamo più tardi, dai, ciao. Ha detto Natalino! Natalino è caduto. Luca Buffo non c'è. Ma che ne so, sono le 5:30, stasera si riesce, sono andato a mettere le gomme alla macchina. Praticamente quelle tirate dietro, che erano nuove, me le ha passate davanti, e quelle nuove le ha messe dietro. perché fa più aderenza dietro, no? Che davanti. E l'ha fatto un pletto buono, Mi ha fatto la convergenza, più gomme, 115 euro. E da questa parte in via Pilato? Oh, viale Porto Torre. Lì mi hanno chiesto 140. No, rimane dietro le spinne. Di viale Porto Torre. No, all'interno comunque, tu appena arrivi via il produttore, se giri per entrare all'Eurospin, tu all'Eurospin non entri, vai proprio all'interno lì. Risulta lì la gomita. No, bravo, è stato onesto la verità. Ho capito. Ah, vabbè. Quello là mi ha detto, se vuoi te le metto davanti, quelle di dietro le lasci così. Siccome quelle nuove che mi ha messo, dice che sono quattro stagioni e me le ha messe dietro. E quelle vecchie sono nuove lo stesso, le ha messe da poco, mi noi le ha messe da molto. Le ho messe quando è? A ottobre, settembre, adesso non mi ricordo di preciso. Forse no, allora, d'estate, insomma, agosto, boh, non mi ricordo, vabbè. E sono nuove. Quelle lì me le ha messe davanti, invece quella nuova le ha messe dietro. Vabbè, le gomme poi dipende, sì. Ti faccio un esempio, quelle ce ne va prima, quelle che ho conosciuta io, erano nuove, perché erano tacchettate, erano buone, solo che erano cristallizzate, e la macchina se ne andava di culo. Vabbè, comunque, con il tempo si cristallizzano, cioè vanno bene, dai, per quello che ho speso, poi se volevo spendere di più, cioè, tiravo una gomma più buona, ecco, ma va bene così, mi sono suicidato rincoglionito, mi sa che mi preparo che tra un po' usciamo. Il meccanico più caro di Zazzari, di quella macchina era sempre a posto. Sì, no, questa qua stessa la controlla anche, cioè, spesso, dai, anche se ha i suoi anni. Però ho notato che stamattina, quando l'ha sollevata, no? Ha una perdita di olio. E infatti il tipo, il gommista mi ha detto che forse, cioè, quella è una perdita dal cambio. Io a Maria gliel'ho detto. Adesso tu mi fa sapere appena può la porta. Comunque del resto già è a posto la macchina. E ci sono da fare un altro po' di lavoretti, tipo freni davanti, frizione, mi sa che è metà andata, via di Vigoni. Ma se vuoi andare tranquillo, la macchina finirà di controllare, la di tutti i conti. I freni, le pastiglie dei freni vorranno questi qui. Quelli sono una cassata, ma le pastiglie non fanno. Le compravo. Quelle di campagna, un'oretta me li chiama lui, ma ecco da lui, il diploma c'è andato, quattro macchine di freno, ma se tu lo puoi fare, guardi quando le stai montando, guardi con me, sono piazzate, campo delle piazzate, dai un paio di pompasse, cammini piano piano lì, magari dietro casa tua lì, se lo fa lì o sotto a casa tua, dai un paio di pompasse e sei a posto. No, io non posso nulla, la bocca in chivi, andiamo sul sicuro, no. Non mi interessa a me cose, la batteria l'ho cambiata io, se batterio dell'acqua, o altre cazzate, stampa dietro, le cose le ho fatte io, ma cose meccaniche, no, non ne voglio toccare, se a me posto danno, no, poi no, non mi interessa metterci le mani lì, la porta lì, paga e se la fa fare. Ma chi richiadi va dando quando chi si gruppo fa? E quanti tu sei buona a contare un computer a smontare quando non lo sei smontato? No, non devo giambare proprio nulla, capito? Niente, ma non c'è nessuno? Non fa gusto, sarà sotto la doccia, cerca di prendere la saponetta. È vero. Beh, grazie, ascolta, mi assento, dai. 10-20 minuti, così che mi preparo, sennò vabbè, no, mi fa zittato. E devo consegnare anche un post. Sono quei computer che erano nei locali, capito? Mi hanno dato per controllare, ma... Cioè, si vede la prima schermata e poi sparisce. Sicuramente è un problema di scheda video. Io più di così, l'ho tutto pulito, gli ho dato anche una passata di aria calda, ma non mi sono fidato, ma le tutte cose non passi di più, la prima volta di bagamme. E niente, non va. 1200 euro costa. È l'unica, eh. A frappi. Ha detto gufo. Cazzo, adesso quanti apparecchi c'è da vendere? C'è nessuno in questo canale? Chi c'è in questo canale? Mamma così. Adesso vado, me lo vendo. Al circolo. Ti porto lo scontrino, lo vedo, c'è un accidente. Appunto. Non ho capito, dimmi. E beh, quella è una cosa diversa che c'entra. Che si marcherebbe. Non è come quello che ho pigliato oggi io, no? L'altra volta era acerbo. Era meglio il rosso, ma questa volta il rosso e c'ha un sapore strano. Era molto meglio il bianco, infatti quando l'ho assaggiato ho detto voglio quello e basta, perché è più buono. E già lo so, infatti ce l'ho, cioè non l'ho messo in frigo, adesso lo metterò in bottiglia domani mattina e poi vediamo un pochettino. È sicuro, mi sto cucinando adesso il pesce, sto cucinando. E così stavolta mangio quello lì, poi domani mattina mangio, faccio le sardine con i pelati, quello di cavallo stamattina. Che tosto che sei, questo lì bufala, quello è bovino adulto, discorso diverso. Ha gettato appena 2 minuti che sto controllando subisce il pesce che ci ho messo in foto. Aspetta che sto controllando il coso, il gratinato, 2 minuti. Sono rientrato. No, stavo volando il coso, la verità. Mi sto bevendo una birra adesso. Stavo volando le... come si chiama? Il pesce. Gratinato avrei, quello che ho messo nel fornetto avrei, come, in che condizioni era adesso. Domani mattina faccio quei pesci col vino, faccio. Col vino bianco, per esattezza. Sicuro, perché mi vedi forse... mi sto bevendo la birra, forse mi vedi sbronzo. Grazie a Dio non lo so. Sì, sono andato stamattina, qual è il problema? Avevo avuto una e poi me ne sono andato. Sì. Gli ho pigliato poco fa, mi sono sceso giù e ho preso gli integratori. Integratori si dicevo, cazzo, bu. Cosa vuoi dire, ricca? Devo dire quelli, ce li fanno bene, cosa vuoi dire, ricca io? Cosa vuoi dire, ricca io? Dai, su conto, è così che sto dicendo. Uguru, è sicuro. Non ce la fai, no, già lo sai. Ah, direi parlare bene. No, ce la fai, Mario, che non ce la fai. Se ormai hai 78 anni, cosa vuoi fare a quell'età lì? Sei a rischio di... come seguirsemi. Seguite, già lo sai che è morto in Brasile. Tu fai la stessa fine, mi sei. Cazzo. Ti ho messo bene il cuore, non ti preoccupare io. Pensa al tuo. Io non fumavo, me. Io non fumo niente. Grazie a Dio, io non fumo. Già funziona quella, non ti preoccupare. Meglio della tua, già è me, a 76 anni. Oioia. Maniaco, manico sessuale. Sì, se pigli Viagra sei proprio morto, guarda, te lo dico io. Devi prendere il Viagra brasiliano. Costa poco e ti danno mano. Costa, mi sembra, 1,60 quando l'ho visto io. Ti fa salire il tipo peperone, mi sembra. C'è poca di erba in mezzo. Ci manca solo l'erba medica. Sì, non è morto nessuno, grazie a Dio, visto che se guarda la TV lo usano tutti lì. Costa 1,40. È una specie di coso, di... cosa ti posso dire? Tipo zenzero, Emmy. Ti bevi quello, dopo mezz'ora ti fa effetto. E stai 10 ore... come un... sembra un gallo cedrone, sembri. Te lo sto dicendo. C'è solo una persona che fa... un medico, solo uno ce l'è, a Rio de Janeiro. Vai lì e ti vende il come si chiama, quello che adesso mi viene in mente il nome, ciò che devi fare per con tutte quelle erbe, quindi figurati tu, niente da fare, ti dura 10 ore. Ogni giorno ne bevi una tazzina e ce l'hai per un mese. Ah, mica dipende dalla mia, non dipende dagli altri, scusa. E tu però, vabbè, ormai c'è quell'età che c'hai, quindi cosa puoi dire? Ma sei vecchio, Mario, sei vecchio. Io ho visto più di uno... che arriva anche a 100 bevendo birra, non so, l'altro, qua... non so, a Sassari no, anche a Nuoro, dipende, anche bevendo vino. Tranquillo, dipende solamente dalla tipologia della persona. C'è uno che ha detto parla bene che sei maleducato. Non è il cane, ce l'aveva con te, che stavi parlando male, cosa l'apparecchio. Come ti ascoltano tutti e qui ha detto parla bene che c'è gente che ascolta, ragazzini, te ti chiamano pacciani, ti chiamano manico sessuale, sei tu. ciù che ciù. Antonello. Chi è? Babbo Natale. Buonasera. La sorre. Come va? Bene, tu? Va bene. E cosa mi racconti, bello? pure da qua, vieni che sei bello, sto visto riposando. Mi sto organizzando per domani mattina da lavorare, figurati. Giuseppe sì, sì. E io sono lì. Allora, figurati. E Antonello che ha fatto? Antonello, bu, l'ho sentito stasera, poi, bu, l'ho perso di vista, bu. Come, vabbè, io c'ho la stazione giù, se mi chiedato, era accesa, gli stavo facendo una cosa, ho sentito, però non so neanche con chi stava parlando, non lo so. Va bene, e tu, sei a posto, sì? Quello che è a posto, è sempre in cerca, hai capito? Un casotto, Ascolta, mandami qualche curriculum in via cosa, non c'è andato all'agenzia via Gaspe e pure via Roma, ci sono queste agenzie interminate per lavoro. Hai lasciato mai qualcosa, no? Dove? Non ho capito. Ti hai lasciato mai qualche curriculum in qualche agenzia? Ce l'ha detto, c'è anche uno in via Roma dove ce l'ha lei una volta. No, io l'ho lasciato là dove c'è... Il curriculum l'ho lasciato dove c'era coso, lì dove c'era la pizzeria, dove c'era Lina, dai, quello lì, lì c'è un'agenzia di lavoro, però non ho avuto mai risposta. Non ti hanno mai chiamato, non ti hanno. No, vabbè, mando anche su in via Coso. Se non sbaglio c'è un'agenzia anche vicino, in via Roma, dove c'era Lina una volta, se non mi sbaglio, così mi ha detto il mio collega. Giusto il stagionale che sono entrati da noi, sono entrati dall'altra agenzia, qualcuno da quell'agenzia e qualcuno dall'altra agenzia di dove era, via Gasperi, figurati. Ah, ho capito, adesso lunedì ci vado e faccio un paio di fotocopie e gliele do, almeno vediamo un po'. A te buoni già va a fare un paio di mesi, due, sei mesi, quattro mesi, sei mesi, questi qua sono entrati per sei mesi, sono entrati, capito? Si fa in sei mesi e poi si piglia la registrazione e poi c'è anche le possibilità di essere chiamati, capito? Come hanno fatto gli altri. Ma dove a Roma dove c'è la pizzeria di Renato? No, mi ha spiegato, mio collega dovrebbe essere, dove alleni una volta, te lo ricordo dove alleni. Di fronte al piso di Renato sulla destra, se non mi sbaglio. Ho capito. Lunedì. Faccio le fotocopie del curriculum e gliele porto lunedì mattina. Insomma, fare quello che c'è da fare, è stato già sostenuto, è interessante che sa qualcosa. E poi l'altra, il mio collega mi ha detto c'è una anche in via Cosi, in via Gasperi, sai dove è via Gasperi? Dov'è? Non ho capito dov'è via Gasperi. Avanti, buonasera. Ah? Non ho capito. Ah no, scusa. No, c'è l'apparecchio e c'è doppia frequenza. Se non parli tu, parla l'altro. Via Gasperi è in via Lunessore, dove c'è... come si chiama? L'Acquini, quella traversa, lo adesso, se non mi sbaglio. Ma qui non è Viale Mancini? Ah, la Coiuglia, sto sbagliando, scusa. Dove c'è la Conad in Viale Ingranci, però c'è quella traversa che ti porta anche all'ufficio del lavoro di traversa. Guarda che hanno aperto un bar piccolino nuovo presso, lì c'è un'agenzia, mi hanno detto. E ci provo ad andare anche lì, adesso vediamo. E la mandi da uno all'altro, la mandi, costa nulla, vedi il curriculum, insomma, e glielo spiega la signorina, quello che ce la fa e fai, non te ne sbatte nulla. E vabbè, è l'importanza che mi pigliano da voi, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Esatto, non sei più un ragazzino. 50 superate le hai, sì? Sì, 51 ne ho. Sì, 51 dunque. Io te ne vinco di 5, te ne vinco, là. Va bene, speriamo bene, lunedì prendi, fai solo come gli mandi, non costa niente. Vediamo se, Antonello! Ma l'hai fatta tu la domanda, è quella dell'Ipsi, quella di 55 anni? Non ho capito. Ho detto, se l'hai fatta la domanda di quella del Reisi di 55 anni, l'hai fatta l'hai? Ascolta, ma ti sei spostato, ti sento un po' male adesso, Ma quel gommino stai usando? Poco anzi è una notazione chiara, adesso sei un po' c'hai un po' di quell'aereo che ti porti, non ti capisco, avanti. Ho detto, se hai fatto la domanda a quella dei 55 anni, che danno il reddito a chi ha 55 anni, danno 200, se sei solo 294 euro, se sei con la famiglia ne danno 400 e passa euro. Vabbè, dobbiamo farla, basta farla. No, vabbè, io già sto lavorando. Ringrazio il cielo, sto lavorando. Basta farla, quanto fa lei? Non la posso fare, ne ho 51, ci vogliono 55 compiuti. Maledetti, forse ecco la domanda che ha fatto l'amico che si è beccato la mattina al bar al corso, che mi ha detto che l'aveva fatta e stava aspettando e è stata accettata. Dunque sta aspettando quando liquido. Quando liquido, anche a me mi devono liquidare due mesi di quella del Resi del comune che avevo fatto per sei mesi, però a me me ne mancano ancora due mesi adesso. Ah, perché stanno piano piano, la liquidazione se a poco la vanno, così. Non lo so, adesso vediamo come deve arrivare il messaggio nel telefonino e andare in banca a ritirarmi i soldi, hai capito? Sì, sì. Io sono un casotto, boh. E comunque lui dice così, di fare uno e l'altro, così, se lui si è entrati a lui, figurati, hanno sopraccalto, ci avevamo altre 4-5 stagionali, li hanno saltati, così, avevano preso questi qua, figurati. Tante queste due agenzie, E adesso lunedì io mi faccio le fotocopie delle cose e gliele porto e vediamo un po' cosa ne esce. Vediamo bene. Antonello deve essere andato a mangiare sicuramente. Antonello! Antonello deve essere bello confezionato. Ma poc'anzi stava parlando, sentiva lui o non sentivo l'altro con chi stava parlando. Io sinceramente pensavo che eri tu, pensavo che stava parlando con te, figurati. No, oh yeah. Vabbè dai, ci sentiamo tutte alle prossime, al limite avremo il modo di incontrarci in persona e ci pigliamo un caffè, dai. Ok, ciao Giuseppe, in bocca al lupo, dai, speriamo bene, dai, ci sentiamo. Ciao, vengo poi in scuola, poi sto aspettando che vedi mia figlia a mangiare, figurati. Ok, ciao. Ciao, buona cena, buona a tutto, dai. Ciao. Antonello, ci sei? Chi è? Avanti. Chi è? C'è nessuno? Avanti, chi è? Il boia. La mazza per vaglia. Giuse. Eia. Sei basso, mi sei. Sono dove c'è il sono all'altro terrazzino, sono. Mettiti in posizione buona, se non ti sento per niente, Giuse. La mazza per vaglia. Dove? Cazzo, pullato là il coglione. No, devi per niente, Giuse. Niente. Chi è l'altro che stava parlando? Guarda se mi senti adesso. Adesso ti sento. Saluta Gianni Capriglio di Muros, che è 27. Molto piacere, io 27 non ce l'ho. Lo so, ma saluta Gianni Capriglio 2. Vabbè. Ricambiati, dai. Ok, vabbè, aspetta che è mollo. Molla. Pinocchio. Aspetta. Che c'è Giuse, dimmi. Ho detto, se l'è mollato quel Finocchio. Chi è Finocchio? E chi? Quello che viene stasera a prendere il vino. Ah, Mario. Già, ci sta ascoltando Mario, non ti preoccupare. Cazzo imbracato c'è. Ancora no. Allora, c'è manca le date. Eia, trovatelo. Aspetta un secondo che sto parlando con Capri 2 di Muro su in 27, aspetta. Maniaco di Barrado. Ciucucciu. Avanti. Avvero. Come va? Yeah. Benton, sta a posto? Tutto a posto, e tu? Sei entrato adesso. E niente. Adesso ci prepariamo per mangiarci una cosa. Quella roba agganciata là stasera? No, sono entrato adesso, Antone. Sono entrato adesso, quindi non sto viaggiando con l'antennino. Ok, comunque agganciata, sto dicendo che funziona bene con la ceccia. Almeno hai finito di rompere le balle. Capito? E sei tranquillo. Poi c'è il cappetto di programmazione, li puoi togliere quel codice che c'ha, tramite il computer li metti direttamente il codice che vuoi tu, per dire, capito? No, mi l'ho acceso, è collegato, però l'ho acceso, adesso lo lascio acceso e vedere un po', perché, Luca mi ha detto che ne ha uno nuovo, che però le faceva un difetto, quando scaldava si resettava da solo e poi ripartiva, quindi se tu stavi, che ne so, scaricando qualcosa, giusto per farti un esempio, succedeva che perdeva tutto quanto, quindi ripartiva la cappa, ed erano rotte le scatole perché non ce la facevi mai a fare quello che stavi facendo, capito? Boh, a me non mi è mai successo la verità con quello, la verità con quello si dica. Spero che non ti capiti una cosa del genere. Perché poi può capitare che magari i LED sono tutti accesi, ti indicano che sta funzionando tutto bene, però magari è partita la porta Ethernet, capito? Adesso per dire c'è la spia accesa del power, del wifi e del service. Ma questo perché? Perché non c'è collegato il i due serviti di... cioè ci vuole poco, non è che ci vuole tanto, è che adesso sto navigando, quindi non voglio che mi cada la connessione ora, capito? Non penso che ti cada la connessione, speriamo di no, ci mancherebbe, comunque sia. Io quando lo usavo giù con mio fratello funzionava benissimo, dopodiché il fatto che gli hanno spedito due, hai capito? C'era un'altra uguale ne ho di quelle lì, però con un codice diverso, hai capito? E quindi niente, cosa ti devo dire? Niente. Poi si è zuffato con la team, ha preso e è passato a Vodafone. Infatti la Vodafone ce l'ho qua, la Vodafone Station, che poi è peggio di quella, non so l'altro. Non serve a niente la vostra postazione, quella vecchia. No, non lo so, Antonio, adesso vediamo, adesso più tardi ci provo e lo lascio tutta la notte in stand by, che vediamo se va, se non va, se no pazienza, non so cosa dire. No, è che stavo facendo dei lavori, capita stasera, il discorso è quello, ormai lo sai che la linea così è un casino adesso, perché stanno togliendo tutto, stanno mettendo le linee nuove, quindi le linee vecchie ti troverai che ti mancherà il segnale tutto nel corpo e cose del genere, capito? Non ho creduto che stanno facendo dei lavori casa per casa, non è che stanno facendo palazzina per palazzina, casa per casa, arriva la fibra direttamente su. Nell'appartamento non ci sono più quei cavetti bianchi e rossi, hai capito? Te tolgono tutto, quindi devo farlo anche a te. Adesso purtroppo devi raccontare di quello che c'hai. Una volta che c'è la fibra che arriva giù, che arriva da dove sei tu, sei tranquillo. Ti daranno magari un modo diverso. Perché sentato sarà diverso, ma comunque sia, va bene. Provvisorio, altro lo puoi fare, anch'io se mi c'ho la buona poi eppure non lo sto neanche usando, è buttata lì. Non lo so, vediamo che funzioni, almeno mi toglie un pensiero. Tranquillo, già funziona bene quella, non ti preoccupare. Ma lo usavo io giù, poi Giampiero si è zuffato con quelli, siccome è venuta una ragazza la vola, appena dice no, quello non mi interessa più, voglio la vola PlayStation, eccetera eccetera, che poi è a peggio, quindi sono tutte una cosa uguale. non cambia niente, cioè i modi sono tutti uguali, a meno che non ci metti l'antenna esterna, quella lunga lunga, che ti fa 500-600 metri, perché cioè anche quella di Giovanna, l'ultima che c'ha, qui sopra non arriva, capito? Fa solamente 30-40 metri, non di più. Ho capito. Oh, non so cosa dire. Vabbè, mi sono in tasca, mi stanno chiamando che è pronto, sennò mangiamo tardi. Ok, okay, non c'è problema. Tu usalo, fregatene. Quello, tanto a me non mi sbattere nulla di quella roba lì. Ti sto dicendo che funziona bene e non ha mai avuto problemi. Cioè, non è malato, grazie a Dio, di problemi. Poi vabbè, adesso devi aspettare che tirano la linea con la fibra, quindi lavora molto meglio. Perché uno è lavorare con la fibra, l'altro è lavorare con i cavetti, che è la cosa diversa. È come avere il G58 con il G213, tale uguale. Sì, va bene. Babù, a dopo magari, dai, Antonio. Ciao. Ciao, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao.